santi e della Vergine una Madonna. E al sordo orecchio un tremulo vegliardo in mano chiede a pane e in ver scende alla mano. Arcai degli abituri l'uscio, un uomo Dio scagliava e contro gli uomini le lacrime dei figli. In cotanta miseria la patrizia prove che fa l'occhio vostro esprime umanamente qui un guardo di pietà, onde io guardato a voi, siccome a un angelo, e dissi, è la bellezza del Sempre il sogno mio d'amore.

Une âme innocente

Hey!

passioni del cuore. S'assonnava in placido oblio, mi ferve soltanto l'amore dell'uomo, l'amore di Dio. Ritorno e verso l'Evangel mi sento attratto.

受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目中，请欣赏帕瓦罗蒂演唱的著名歌剧咏叹调。

un dì all'azzurro spazio guardai profondo, dai prati colmi di viole, pioveva ora il sole e folgorava d'oro il mondo, pare alla terra un immane tesoro. Alle vostre parole, non è l'odore. cammina per ogni umana sorte. Ecco già mi avvicina all'ora della morte, e forse prima che l'ultima mia strofe sia finita m'annuncerai la carnefice, la fine della vita. Sia strofe ultima dea, ancor d'ora al tuo poeta, la storia corrente idea, la fiamma corre sull'eco, io a te mentre tu da me scordi dal cuore darò per rima in acero. Volenti spiriti, il giovani ardore, e la dentro col placido sorriso dell'amor, dal dì che disse di vivere, io voglio te. Vivere io voglio a te fedela, sì, dell'universo in me. Thank you. Allor ti ha avuto è stato